Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono e lo ricordo, ospiti Critical Project, con voi e con loro ascolteremo alcuni brand del loro disco Più di un attimo sospeso, come ad esempio quella che abbiamo ascoltato, il titolo? Lungo il cammino, la canzone che abbiamo fatto, quella un po' più lanciata al posto di quella più tranquilla alla recensione musicale. La vostra esperienza in sala di registrazione e quali le idee musicali a supporto di questo CD? Beh, in sala di registrazione ci siamo divertiti un sacco, siamo andati con 12 pezzi che pensavamo fossero definitivi e invece ognuno ci metteva idee nuove, alla fine li abbiamo quasi tutti stravolti, comunque siamo contenti del risultato. Si entrava con un'idea e si usciva con tutt'altro. E di notte venivano creati i synth. Ah, non lo so, io invece ero in Brasile. Bravo. È vero, abbiamo iniziato. E noi a sgobbare. Questa è la parte comica dell'album. Abbiamo iniziato la registrazione senza il cantante. Esatto. Ci siamo arrangiati io e Marz. Ed è stata veramente dura. E io niente. Dopo, sei subentrato. Dopo. Va bene, il prossimo brano per chi ci ascolta. Il prossimo brano si chiama Romanzo. Il brano delle ragazze. In studio ancora con i Critical Project, visto che è ancora prematuro parlare di recensioni, quali sono stati i commenti dei vostri sostenitori che hanno ascoltato il disco in anteprima? Ci hanno detto siete troppo fighi! E questo è un bene, esatto. No, è un... siamo contenti perché comunque parecchi ci hanno detto che non si aspettavano un CD fatto così bene, un CD professionale con una musica comunque completa. Sembra un CD vero. Esatto. È di buon auspicio comunque. Prossimo track. Quello che mi pare. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Critical Project e voi restate sempre su Radio RCS. Oggi il fascino non mancherà, guarda! Siamo in una boy band, scusaci mamma! Non sono sportivo! E neppure figo! Se faccio una corsa manca pure il fiato! Non sono fighetto e me ne sono grato. Non sono un tipo che di solito si nota. E non sono un tipo che nota una tipa vuota e se esco non torno presto. Se non esco di sicuro mi svesto. Le birre in mano, scialate sul divano. Posso andare dove mi pare. Posso fare quello. Non ti porterò mai nei locali più trend. Mi posso ascolto rap mentre faccio surf. Mi siedo all'angolino, ridacchio del jet set. Caviale, fragole, champagne, ok va bene. Ma preferisco roba buona. Oh, vuoi dire roba alla cola? Fa lo stesso, portamelo presto. Basta che sia fresco, tra bambino e tipa che voglio fare sesso. Non mi piace la palestra, una mattina la corsetta. Chiamami surfista e ricorda tipa. Posso andare